umido il tuo viso, col vento te ne andrai, come rugiada ti perderò. Nefasto è il tuo destino. Canto disperato, voglio poter udire la tua voce ancora. Nefasto è il tuo destino. Mani di luce ti afferrano forte, sfidano la morte per riportarti qui. Fiamma della vita riappare piano piano, il sangue scorre ancora nel cuore tuo. Adesso con notte d'oro il tuo destino, il tuo destino. Adesso con notte d'oro il tuo cammino. Respira ancora, bentornato amico mio.